Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Gli animali ad agosto li portai tutti con me. Il cane lo porto via, il canarino e il pesce ci pensa il giardiniere e la cavia la devo mettere da qualche parte, adesso decideremo. E i cavalli al maneggio. Io gli animali me li porto dietro a mio cugino e mio fratello che vengono con me in ferie e poi una volta lì vediamo cosa fare. Li porto con me sempre. E adesso abbiamo anche un cane, un labrador, e viene con noi. Ho una tartaruga, però la lascio al vicino. 5 gatti e 3 cani sono paragonabili a avere un figlio almeno, quindi mi sono abituato. Buongiorno, buongiorno, sono le 10:10 di giovedì 4 agosto e siamo ad agosto, tecniche di sopravvivenza. Come avrete capito dalle interviste che abbiamo raccolto per strada, oggi si parla di animali. Animali, che cosa fare quando si sta per partire per una vacanza? Insomma, dove lasciarli se non li potete portare con voi? Le attenzioni che è bene dedicare quindi ai vostri animali domestici proprio in agosto, perché se già agosto è un mese difficile per noi, figuriamoci per loro. Chiaro che la maggior parte di chi ha un animale domestico probabilmente si è già organizzato, se sta per partire, quindi cani, gatti, criceti, tartarughe, insomma tutti questi animali che sono nelle case degli italiani diventano dei veri e propri membri della famiglia, diventano uno di noi e quindi come ogni singolo componente della famiglia si deve tenere conto delle loro esigenze quando si sta per partire per un viaggio. Ma voi come vi siete organizzati quest'estate o come vi organizzate di solito? Vuoi un consiglio? Dovresti comprarne un cucciolo. Io non ho mai avuto un cane. E che ci vuole? Lo porti a spasso, gli dai da mangiare, gli fai fare i bisogni. C'è una piccola sorpresa. Belli, sono eh? Sono adorabili. È proprio come un bambino, ma più peloso. Proprio come un bambino, ma più peloso. Sì, voi cosa pensate del vostro cane o del vostro gatto o comunque dei vostri animali domestici? Scrivetecelo ad agosto @radio24.it oppure chiamateci all'800 24 00 24 o i vostri sms al 349 238 6666. Come vi state preparando alla partenza in compagnia dei vostri animali oppure come vi state preparando se li dovete lasciare a casa? Per esempio, io il mio gatto lo lasciavo a mia madre, quindi lo lasciavo dalla nonna. Ma molti di voi hanno chiaramente delle persone a cui lasciarli o si sono organizzati per poterli portare con loro. Ma ci sono delle situazioni tipiche, no, in cui ci siamo ritrovati tutti, e tutti intendo chi possiede un animale domestico, le situazioni classiche nelle quali magari vi state trovando adesso. Noi abbiamo fatto il solito elenco e vediamo quali sono. Mamma, tu hai un alano ed io un persiano. Anche se i nomi fanno rima, non è detto che vadano d'accordo. Cosa sono tutte queste storie, Carlo? L'anno scorso ho portato te in vacanza, quest'anno porto Ruffo. Alice, ho trovato una pensione dove lasciare il tuo coniglio. Vedrai, starà che è una meraviglia. È vero che in vacanza i tempi si rallentano per tutti, tesoro, ma non possiamo portarci la tua tartaruga. Non si troverebbe bene sulle Dolomiti. È una femmina, sì. E il suo? Ah, direi che non ci sono dubbi. È un maschio. O me o il pesce rosso. No, dai, è vero che lui parla meno, ma che alternativa è? Vi siete ritrovati? Sono situazioni che nelle quali vi riconoscete. Scriveteci ad agosto @radio24.it oppure i vostri sms al 349 238 6666 o le vostre telefonate in diretta all'800 24 00 24. Sì, gli animali diventano un componente della famiglia e quindi ci si affeziona, li si deve trattare con i guanti chiaramente. Ma ad amare in modo veramente incredibile gli animali ci sono i giapponesi. Abbiamo sentito prima nelle interviste per strada che avere dei gatti, dei cani o comunque avere un numero consistente di animali domestici può essere come avere un figlio. Ecco, i giapponesi per esempio, nelle case dei giapponesi ci sono più cani e gatti che bambini, più di 22 milioni di quadrupedi rispetto ai 16 milioni dei piccoli bipedi, per un giro d'affari annuo pari a oltre 11 miliardi di euro, cioè 11 miliardi. Ci sono delle piste da passeggio coperte per i giorni di pioggia, ci sono i negozi di parrucchiere, di zampicure. Addirittura ad Osaka, che è la seconda città del Giappone, ci sono dei bar, i Cats Café, dove i gatti girano per i tavoli e si fanno accarezzare dagli ospiti del bar. Addirittura si può entrare in questi bar, in questi Cats Café, senza dover consumare nulla, pagando una piccola quota, solo per accarezzarli. Beh, che meraviglia, io ne sarei un'assidua frequentatrice. Il piatto matto, arriva sul tetto. Il gatto matto guarda tutti con sospetto, dall'alto controlla ogni strano movimento. Il gatto matto sta fuori, il gatto matto sta dentro, ma è curioso e lui lo sa, controlla tutta la città. Ma da questa sera gratta sulla porta, chissà cosa vorrà. Mi fissa con diffidenza sul ciglio della porta, lo tocco, si gonfia, mi graffia, poi scappa, non si fa vedere. Il gatto matto si nasconde nel cortile, ma è curioso e lui lo sa, gira tutta la città. Ma questa notte non mi fa dormire, vuole entrare qua. Ehi, ehi, lasciami entrare, mi chiede per favore. Ehi, dai, fuori c'è un cane che mi vuole fare male. Ehi, ehi, se mi vuoi bene, non stare ad aspettare, lasciami entrare. Sarò il gatto più fedele che tu abbia conosciuto mai. Nel mio piatto non solo mi sporca anche tutto il pavimento. Il gatto matto è molto furbo e attento, e quando ho gente a casa mia non sa fare compagnia. Ma che convivenza, ho perso la pazienza, vai fuori di qua. Lui mi fissa con arroganza sul ciglio della porta, lo tocco, si gonfia, mi graffia, poi scappa, non si fa vedere. Il gatto matto si nasconde per le scale, ma è testardo e lui lo sa, lo sa. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Il tema di oggi sono gli animali e le tecniche di sopravvivenza per organizzare al meglio le vostre vacanze. In estate purtroppo aumentano anche gli abbandoni. Fortunatamente le campagne di sensibilizzazione sono sempre più numerose, come sono sempre più numerosi i personaggi famosi, le persone dello spettacolo che sono in prima linea nella campagna antiabbandono. E oggi ne parliamo con Giorgio Panariello, uno dei più attivi in questo senso. Ciao Giorgio. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano oggi. Buongiorno, buongiorno Giorgio. Ma se un cane potesse parlare, che cosa direbbe al padrone che sta per partire? Guarda, io ho scritto un libro e in questo libro ho rappresentato attraverso anche delle fotografie che cosa può pensare un cane quando viene chiamato in macchina, no? Quindi attraverso delle foto anche simpatiche, anche divertenti, immaginavo che il cane ragionasse e pensasse: come mai il padrone oggi mi vuole portare a fare una giratina che non è giornata oggi? Strano che partiamo proprio oggi, che sta per partire per le vacanze, eccetera. E quindi si fa una serie di supposizioni e poi alla fine, quando capisce essere abbandonato, dice: almeno guardami negli occhi quando mi abbandoni, che credo che sia la cosa che secondo me è quella più difficile da fare, no? Normalmente si lascia e poi gli si gira le spalle e ce ne andiamo, e lì finisce un amore, come direbbe Riccardo Cocciante. Quindi certo, l'ho immaginato attraverso delle fotografie che sono simpatiche, divertenti, ma poi hanno un finale, così come d'altronde poi mi piace fare sempre a me per quanto riguarda la sensibilizzazione su questi argomenti, perché guarda, io credo anche che alla fine il fatto che alcune associazioni, che tra l'altro rappresento anche come presidente onorario, come la Lega per la difesa del cane per esempio, si affida a me perché sa che sono quel tipo di comico che può sdrammatizzare, no, una situazione, e proprio perché magari la situazione che è drammatica viene all'inizio presa così in burletta, come si dice da noi in Toscana, poi quando arriva il messaggio finale, forse all'effetto di uno schiaffo, perché da un comico non ti aspetti, no, un messaggio. Chiaro. E quindi le cose, probabilmente quelle che sembrano leggere, alla fine hanno un piccolo messaggio nascosto che viene fuori all'ultimo quando nessuno se l'aspetta, ed è molto più efficace. Molto più efficace, certo. Ma una tecnica di sopravvivenza per chi sta partendo adesso con gli animali e ha deciso di portarseli in vacanza? Guarda, la crisi economica ci è venuta incontro in questo caso, tutti quelli che amano gli animali, perché sia gatti che cani, qualsiasi animale che da compagnia. La tecnica di sopravvivenza oggi, insomma, ci viene incontro la crisi, perché con il fatto che ci sono pochi soldi in giro, pur di avere i padroni negli alberghi, hanno aperto le porte anche ai cani, prima alberghi dove tu non potevi portare il cane, ora improvvisamente, guarda strano, sono diventati tutti molto sensibili alla causa animalista e fanno entrare i cinghiali, i furetti, le giraffe, capito, gli gnu fanno entrare, capito, i licaoni, i cani del deserto, qualsiasi cosa puoi portare, la zebra, anche se sono solo gli pentini, la fanno entrare. Perché proprio perché con gli animali entrano anche i padroni. Quindi in questo adesso c'è anche un'ampia scelta. Poi ci sono enciclopedie, a questo punto hanno fatto anche dei libri dove tu puoi andare a vedere quali sono i posti dove puoi portare il cane. Ovviamente il tutto va corredato da una nostra educazione, perché molto spesso chi odia gli animali è perché odia i padroni degli animali. Perché abbiamo spesso, l'ho fatto anch'io qualche volta, non sono scevro da questa responsabilità, però molto spesso siamo un po' leggeri, cioè noi portiamo il cane di 4 quintali e pretendiamo che magari la vicina che sta nella stanza accanto o quella della spiaggia accanto, che ha paura degli animali perché è stata morsa o semplicemente perché non gli piacciono gli animali. Io sono contrario a chi dice che chi non ama gli animali non ama gli uomini, non è vero, insomma ci possono essere molti motivi per cui uno è allergico, ci sono tanti motivi per cui probabilmente il tuo cane può infastidire il vicino. Ecco, quindi bisogna avere la sensibilità di poter avere il cane e poterlo portare dove si può portare, dove ci sono le aree apposte, non volere per forza sopportare il nostro cane a chiunque, adducendo al fatto che se non sopportate il mio cane non siete degli esseri umani. Non è probabilmente così, quindi unito a una buona educazione del padrone, adesso il fatto di poter di avere più possibilità di portare il cane. A proposito di questo, ti vorrei leggere una cosa molto carina che mi è capitata di leggere in un albergo e me lo sono portato volentieri via. Adesso mi metto gli occhiali perché non tanto perché mi servono, ma perché ti stanno bene, per la questione di look. E allora c'è questo foglio che io ho letto e me lo sono fatto fotocopiare perché è bellissimo, e dice: un uomo scrisse ad un albergo di campagna in Irlanda per chiedere se avrebbe accettato il suo cane e ricevette la seguente risposta: caro signore, lavoro negli alberghi da più di 30 anni, fino ad oggi non ho mai dovuto chiamare la polizia per cacciare un cane ubriaco nel cuore della notte, nessun cane ha mai tentato di rifilarmi un assegno a vuoto e mai un cane ha bruciato le coperte fumando, non ho mai trovato un accappatoio dell'albergo nella valigia di un cane, il suo cane è dunque il benvenuto, PS, se lui garantisce può venire anche lei. Ecco, questo credo che sia significativo per quanto appunto alle volte siamo più bestie noi delle bestie, insomma, e quindi credo che ci deve essere una giusta equazione. Certo, grazie mille Giorgio. Un'ultima cosa prima di lasciarci. Allora, se la signora Italia avesse un cane? Sì. Guarda, la signora Italia non so che cane potrebbe avere, sicuramente un cane d'appartamento, perché deve stare in casa a origliare dietro le porte, perché insomma nel caso di intercettazioni, se dovessero fare delle intercettazioni telefoniche anche agli inquilini, la signora Italia sarebbe sicuramente una di queste. E io usavo delle battute sui cani divertentissimi quando lei diceva: oh, mamma, viene questa signora sempre in chiesa con questo canino sempre in braccio, sempre fisso, dice c'ha il pedigree, ma deve essere una malattia dei piedi dei cani, perché uno posa mai questa bestia interna. Poi io per esempio non capisco tutti quelli che comprano quei cani, quelli carlini, quelli con quel viso schiacciato, troppo schiacciato, secondo me a quei cani lì gli buttano il bastone troppo vicino al muro. Grazie mille Giorgio. Grazie a te. Grazie, buona giornata. Ciao. Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità ed il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda. E il terzo è una cagna quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida. Ogni tanto si ferma a annusare la vita. La vita. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Arrivano un sacco di messaggi oggi al 349-238-6666. Questo dice: buongiorno, bellissimo tema. Ho due cani che a settembre durante le ferie stanno dai rispettivi nonni, ma durante l'anno sono sempre con noi. Cibo, coccole e tante corse. Sì, agosto, tecniche di sopravvivenza, vale soprattutto per loro, per gli animali. E oggi ne parliamo con Danilo Mainardi, professore ordinario di ecologia comportamentale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Il volto familiare di Quark e la penna del settimanale 7 con la rubrica Animalia. Buongiorno professor Mainardi. Buongiorno. Buongiorno. Vero che agosto è un mese stressante anche per gli animali? Può esserlo. Cioè, mentre lei faceva questa introduzione stavo pensando che potrebbe anche non esserlo, però in molti casi. Ah, perché, perfetto. Insomma, un cagnolino che accompagna la sua famiglia in montagna e poi va con la famiglia a fare le gite nei boschi, certamente non è mica tanto stressato. Giusto. Perché un cagnolino ha bisogno di stare insieme con la sua famiglia, per cui questo qui possiamo prenderlo come parametro. Tutte le cose che si differenziano da questo producono invece un qualche tipo di stress. Perché una partenza comunque va organizzata se si hanno degli animali, giustamente, no? Sì, molte volte va anche organizzata con molto molto anticipo, perché per esempio se un cane o anche un gatto devono essere lasciati in pensione, la pensione va scelta molto bene, molto tempo prima, magari fare un esercizio di portare l'animale, cane o gatto che sia, e lasciarlo per pochissimo tempo in modo che lui capisce che poi lo si va a riprendere. Questo qui è già un grosso sollievo, e sia il cane che il gatto sono animali intelligenti e fanno molto in fretta. Già. Poi si trovano lì da trovarsi bene, delle persone che gli fanno festa, un po' diventa quasi una seconda casa, ma bisogna abituarli. Certo, ci sono uno stress grosso. Certo, ci sono dei segnali appunto che ci possono far capire se sono stressati i nostri cani, i nostri gatti, proprio in prossimità, guardi, della partenza. Il segnale più facile da leggere quando un animale è stressato, se un cane che gatto cambia il ritmo della respirazione, respira affannosamente, quello è proprio un segno di stress. Quando per esempio noi portiamo un animale in macchina, fa tanta strada, caldo, cose di questo genere, sentiamo un respiro affannoso che va al di là della sua necessità di ossigeno e che è un segno di stress. Tra l'altro mi viene in mente anche una cosa importante da dire in estate che riguarda i cani, perché quando viaggiano molte volte bisogna mettergli la musarruola. Allora mai a un cane, assolutamente mai mettere una di quelle musarruole a fascetta che gli stringono la bocca. Certo. Perché loro devono respirare a bocca aperta, i loro ricambi avvengono anche, diciamo, scambi per la termoregolazione tramite la lingua fuori è un classico del cane, per cui se ci vuole una museruola, quella arrabbiata, se no piglia dei colpi di calore, insomma, sarebbero una cosa crudelissima. Certo, ma e quindi cosa si può fare se appunto si vede questa alterazione del respiro di un animale? Qual è la prima cosa che si deve... La prima cosa, secondo me, se si vede così, insomma, intanto cioè ci si ferma, lo si fa giocare un po'. La cosa fondamentale, questo è soprattutto per il cane ha bisogno di affettività. Poi gli si dà da bere, così insomma si fa una sosta in un posto adatto se è in viaggio, ma insomma un cane che viaggia con la famiglia non dovrebbe essere tanto più stressato degli altri membri della famiglia. Giustamente. Quello che bisogna concepire è che lui è una parte della famiglia, per cui il suo star male, se c'è, è più di natura psichica e affettiva che non per tutto il resto, perché insomma un cane è contento anche se deve fare dei sacrifici, ma li deve fare in un ambiente rilassato, allegro. Naturalmente. Soprattutto sentirsi parte di questo gruppo. Certo, ma se invece siamo costretti a lasciarli in pensione, quindi a lasciarli a casa, che cosa ci fa capire che sono stati bene o sono stati male nella pensione che abbiamo scelto per loro quando torniamo? Guardi, se è stato molto male subentra un fenomeno che poi può diventare molto grave, che è la depressione. Ah. Cioè quando torniamo non ci fa festa, non dimostra l'allegria di prima, cioè sia il cane che il gatto vanno incontro a fenomeni depressivi, per cui se lo vediamo mogio mogio o che non ci viene incontro, quello è un segnale d'allarme abbastanza forte. Dipende molto anche da come sono trattati, perché il cane in pensione non deve stare sempre in un recinto, in una gabbia, deve uscire a giocare con gli altri cani, e poi dipende dalla forza dell'attaccamento che lui ha col padrone. Insomma, è un brutto scherzo se lo si lascia lì per un mese senza avergli fatto fare un po' di esercizio. Beh, giusto, senza averlo... Di allontanamento, di avergli regalato un po' di autonomia prima. Per cui questo qui va capito. Certo, beh, è stato veramente molto prezioso, consigli utilissimi sicuramente per i nostri ascoltatori che si stanno mettendo in viaggio. Certo. Grazie mille, buone vacanze. Buongiorno. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Ben ritrovati, sono le 10:33 e oggi si parla di animali in vacanza. Arrivano i vostri messaggi al 349-238-6666. Questo dice: noi in famiglia siamo in tre, Mauro, Antonella e Billy. Andiamo in vacanza ogni mese in camper, sempre insieme. Se capitiamo in un posto dove i cani non sono ammessi, semplicemente ce ne andiamo altrove. Ma anche le vostre telefonate, quindi con le vostre esperienze, insieme ai vostri animali, ai vostri cani, ai vostri gatti, ai criceti, insomma agli animali domestici che vi volete portare in vacanza. All'800 24 00 24. E adesso parliamo con Paolo da Genova. Ciao Paolo! Ciao, buongiorno. Allora, la tua esperienza con un cane, mi sembra. Sì, io 9 anni fa mi hanno regalato il mio primo cane. Io faccio rappresentante per lavoro, giro l'Italia e delle volte l'Europa e sempre col cane che seguito. Uh-huh. Il mio cane ha 600.000 chilometri. Ha 600.000 chilometri? Contatti precisi. Mio Dio. Sia in vacanza che in lavoro, dal Portogallo, la Turchia, Palermo, la Svizzera, la Francia, Norimberga, ovunque con me. Che meraviglia, e che cane è? È un media taglia, mezzo dalmata e mezzo pointer. Ma come si chiama? Bianco. Pardon? Come si chiama? Yar, il lunga R. Yar. Ah, fantastico. Ecco. E quindi è sempre con te, lavoro, vacanza. Uh-huh. Esattamente. Siccome si parla appunto di tecniche, io posso per questi 9 anni e mezzo ho attuato una serie di tecniche quando arrivo in albergo. Se posso rapidamente? Sì, certo che puoi, devi. Allora, benissimo, allora. Innanzitutto l'albergo lo scelgo sulle guide che accettano i cani. Ci sono guide apposta che accettano i cani, quindi sappiamo già che siamo ben accetti. Certo. Prima di arrivare in albergo gli faccio fare una bella passeggiata e lo spazzolo per bene, così non lascia in giro il pelo. Giusto. Non mi presento mai con i bagagli, il cane e il documento, perché può succedere che magari c'è un bambino che viene a giocare col cane, insomma non si sa mai. Allora io prima arrivo con i miei bagagli, prendo la chiave, vado su in camera, metto su Plaid, perché l'altra cosa importante, e mi è piaciuto quello che è stato detto prima, che viaggia come un membro della famiglia. Eh sì. E quindi lui c'ha la sua valigia. C'ha il trolley, Yar col trolley. nella sua trollina in questo momento, perché io sono di Genova, ma infatti sono a Vicenza in questo momento col cane, e c'ha due asciugamani, le scatolette, la spazzola adesiva, perché quando lascio l'albergo do una spazzolata, specie se c'è sulla moquette, perché capisco che qualche pelo si perde, c'ha i suoi giochi, così non si distrae a cercare altri giochi nella stanza. Ma sei c'ha meraviglioso, Paolo, bellissimo. È importante. C'ha una mantellina per quando piove, un guinzaglio di riserva, le sue scatolette, insomma, e soprattutto, ecco, se mi posso permettere, quando io lascio un albergo non lascio mai le scatolette nel cestino, me le porto sempre via, perché comunque anche chi pulisce le stanze, delle volte, se vede le scatolette, va a cercare il pelo. Se magari ho a volte occhio non vede, cuore non vuole. E quindi, come siamo venuti, andiamo via puliti proprio. Ma sei anche molto attento, bravissimo. È importante per tutti. Ma quest'anno partirai? Quest'anno partiamo, Sardegna, 2 settimane, chiaramente già prenotato sul traghetto anche lui, ma ormai il traghetto è un veterano del traghetto. Ma fantastico, grazie mille per la tua esperienza, Paolo. Grazie. Speriamo sia servita anche a qualcun altro. Buone vacanze allora. Grazie, e saluti anche a Iar. Ciao. Grazie, ciao. Ecco, le vostre esperienze infatti possono servire a tutti, no? Per stilare questo vademecum del bravo proprietario di cani, gatti, tartarughe, pesci rossi, insomma, solo per dirne alcuni, perché poi ce ne sono tanti. Ma gli animali, da che mondo è mondo, sono stati protagonisti più o meno consapevoli della storia, senza scomodare le oche del Campidoglio. Oggi, 4 agosto, nella storia, che cosa è successo? 5 agosto 1884. La prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Bedloe's Island, a New York. I piccioni da allora ringraziano. 5 agosto 1905. In Francia ha luogo la prima riunione di campeggiatori en plein air. Viene considerata la nascita ufficiale del campeggio. Permesso di portare animali? Accordato. 5 agosto 1973. Viene lanciata la 13ª sonda verso Marte nell'ambito della missione russa Mars 6. Fortunatamente niente cani a bordo. In ricordo della prima cagnolina lanciata nello spazio, un piccolo fazzoletto di terra sul suolo marziano viene nominato, anche se in modo non ufficiale, Laika. Who let the dogs out? Was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I have a pull my shout out. Who let the dogs out? Bascoffi, get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah, V-I-O. 280 cows calling them canine. Hey, V-I-O. But they tell me, hey man, it's part of the party. V-I-O. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Bascoffi, get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking to the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short, dealing, can't see color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? 9.41, agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di animali. E il numero di cani e gatti che ci sono nelle nostre case, nelle case degli italiani, ci spinge a parlare soprattutto degli animali a quattro zampe, quindi di loro. Tra l'altro, fino a qualche tempo fa, mi dicevano cane e psicologo insieme, io pensavo subito al cane di Pavlov, no? Quello che salivava. Invece adesso ci sono anche gli psicologi per i cani. Non so se qualcuno di voi ha mai fatto ricorso ad uno psicologo per cani e per gatti, perché può succedere, magari ci sono cani da guardia che non abbaiano, ci sono invece quelli di appartamento che lo fanno troppo e disturbano i vicini, c'è il gatto aggressivo, quello che magari è terrorizzato dai tuoni o dai suoni, appunto dai rumori. Ecco, da adesso ci sono anche gli psicologi per cani e per gatti, perché è abitudine americana ma è arrivata anche in Italia. Raccontatemi le vostre storie all'800 24 00 24 oppure i vostri sms al 349 238 6666. Come vi state organizzando per queste vacanze? Quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza se avete appunto degli animali? Se rimanete in città, se state per partire, insomma, che cosa c'è da fare? Ci sono delle notizie molto curiose legate sempre al mondo degli animali. Per esempio, visto che si diceva prima è come uno di famiglia, è un membro della famiglia e come tale va trattato, può essere quasi un figlio, no? Un figlio solo un pochino più peloso. Notizia, secondo me, incredibile. A Londra, nel parco, arriva anche il carretto dei gelati per cani. Si chiama K99. Ci sono dei gusti particolari studiati proprio ad hoc per i cani. Un team di scienziati ha selezionato appunto questi gusti, che sono, vanno dal pollo al prosciutto, e sono decorati con un biscotto per cani. Mi sembra una bella notizia, ma soprattutto perché i ricavati vengono messi a disposizione per la ricerca e il soccorso dei cani. Come si diceva, avete molti cani, non sapete dove lasciarli, magari perché state per partire, e dove andrete non accettano il vostro animale. Ci sono un sacco di persone anche che fanno il pet sitter, quindi possono prendersi cura del vostro animale mentre voi siete in vacanza. Per esempio, su un sito come eBay Annunci, in estate gli annunci dedicati agli animali domestici sono 35.000, di cui 5.200 a Milano e 3.500 a Roma, per esempio. Quindi è il contenitore ideale per le soluzioni creative e concrete se state per partire e non sapete dove lasciare il vostro animale. Come diceva anche Pannariello, la crisi ci è venuta incontro perché sono aumentate del 60% le strutture che ospitano cani, gatti o comunque i vostri animali, e quindi ci si può portare anche il licaone, come diceva Giorgio Pannariello. Per organizzarsi bene le vacanze basta fare un giro su Google, quindi internet, una vacanza dove poter portare il vostro animale, e quindi dove trovare strutture cosiddette pet friendly, no? Quindi che possano ospitare anche loro e che sono organizzate per avere anche loro. Gli agriturismo sembrano andare per la maggiore. Per esempio, nella classifica di TripAdvisor tra i migliori hotel pet friendly c'è il Belvedere a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Se vi interessa, arezzobelvedere.it. Invece, per spiagge che accettano cani senza problemi e hanno addirittura dei campi di agilità in acqua e una piattaforma galleggiante per tuffi e giochi, c'è il Bau Bau Village, nato nel 97 ad Albisola Mare in provincia di Savona. Se invece li dovete portare per mare, viaggi per mare, Grandi Navi Veloce offre il servizio Pets on Board e Corsica Sardinia Ferries altrettanto. E ecco, mi stanno, a proposito di trasferimenti di cani, mi stanno avvisando che devo lanciare il traffico, quindi ci ritroviamo qua tra qualche minuto. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di animali in estate, strutture pet friendly per portarli in vacanza o dove lasciarli nel caso in cui non possiate portarli con voi. Ci sono, come dicevamo, delle figure specializzate, i pet sitter, e sono delle persone che si occupano di curare i vostri animali quando voi non ci siete. C'è addirittura un patentino per garantire la preparazione di questi professionisti adesso, e oggi ne parliamo con Sophie D'Ancona, presidente dell'OPSI. Buongiorno Sophie. Buongiorno. Vi racconto sicuramente quello che lei già appena accennato. È molto importante avere comunque delle persone formate per poter occuparsi bene dell'animale, nel senso che spesso le persone pensano che andare a fare la passeggiata con il cane o dare da mangiare al gatto è una cosa molto semplice. Certo che in sé sembra semplici, però non si può immaginare che possono capitare diverse cose durante il servizio di cat sitter, dog sitter o nack sitter per i nuovi animali da compagnia. Ah, perché ci sono diversi nomignoli, quindi non è solo pet sitter. No, il pet sitter in pratica, ed è abbastanza importante ricordarlo, è il nome dato alla persona che è capace di occuparsi di tutti gli animali domestici. Poi ci sono delle specialità, nel senso che ci sono persone che preferiscono semplicemente occuparsi di cani, quindi sono dog sitter, di gatti che sono cat sitter e di nack sitter che sono le persone che si occupano dei nack, quindi dei nuovi animali da compagnia, freddi, tartarughe, eccetera, che sono sempre più presenti comunque nelle case degli italiani. Senti, ma questo corso esattamente in cosa consiste? Ci sono delle ore, c'è una scuola, ci sono delle aule particolari, insomma come ci si iscrive? Anche. Allora, sì, assolutamente. Allora, noi siamo in comune di Como, siamo a Como e siamo patrocinati dal comune di Como. Siamo la prima scuola in Italia che ha deciso di formare questa figura professionale sotto comunque un profilo associativo, nel senso che noi vogliamo assolutamente che questa figura sia riconosciuta come una professione e non solo un lavoretto che uno studente può fare così in maniera diciamo dilettantistico, perché in ogni caso ci sono tantissime responsabilità, sia a livello dell'animale, sia a livello dell'abitazione anche dove residono gli animali. Certo. Perché non dimentichiamoci che noi abbiamo anche la responsabilità della casa, le chiavi. Ad agosto, per esempio, quando non c'è nessuno, se entriamo in una casa dove, per esempio, c'è stato prima un temporale, che ammettiamo che la cantina è allagata, come ci comportiamo, l'animale dove si trova in posizione di sicurezza, se non si è rotto un vetro durante un temporale, se le finestre sono tutte chiuse. Certo, ma se io volessi iscrivermi a questo corso, sì, come devo fare? Quando aprono le iscrizioni, come posso comportarmi? Allora, il prossimo corso adesso è un corso molto completo, facciamo un corso di 2 weekend consecutivi, il prossimo quindi il 2 e il 3 di ottobre e il 7 e il 9 di ottobre, il 7 e 8 di ottobre. Mm-hmm. Sono 32 ore e ricopre assolutamente tutte le figure. Noi abbiamo deciso comunque, perché sempre più le richieste vengono da proprietari che non hanno solo una tipologia di animale come il cane o il gatto, ma anche i NAC, quindi abbiamo deciso di fare una cosa completa sin dall'inizio. Formiamo una figura capace di andare a casa di un proprietario indipendentemente dall'animale che tiene, sempre giustamente l'animale domestico. Certo, e c'è un numero di telefono, c'è un'email alla quale... Assolutamente, abbiamo il sito internet che è www.obiettivopetsitter.it. Perfetto. E lì clicca su formazioni OPSI. Uh-huh. E poi ci sono tutte le procedure, il modulo di iscrizione, il programma da richiedere, e l'iscrizione si chiude una settimana prima del corso, quindi prima del 2 di ottobre. Alla fine di settembre, prendiamo quindi 10 partecipanti, massimo 15 partecipanti, perché vogliamo appunto poter seguirli. Esatto, bravissima, che bene. È molto importante. Bene, bene, grazie Sofì. Ci sentiamo presto e speriamo che a qualcuno, insomma, sia servita questa notizia per iscriversi al prossimo corso. Lo speriamo. Grazie. Grazie. Grazie. Ciao. This world is big and wild and half insane. Take me where real animals are playing. Just a dirty old shack with a hand of bark that we called our home. I wanna be back there among the cats and dogs and the pigs and the goats. Wow. you were real animals I play. And people are people, not just playing. It's a quiet, quiet life by a dirty old child. Tecniche di sopravvivenza. Oggi stiamo parlando degli animali, gli animali in estate, come comportarsi con loro, quali sono le tecniche di sopravvivenza che dobbiamo attuare se li vogliamo portare in vacanza con noi oppure se li vogliamo lasciare a casa. E adesso pronti per le nostre tecniche di sopravvivenza con la carta e la penna e orecchie alzate. 1. Poldo l'hai lasciato in pensione. Ti manca, è vero, ma evita di lanciare bastoni sulla spiaggia sperando che tua moglie te li riporti. 2. Anche se il tuo merlo indiano riproduce perfettamente il rumore della TV accesa, non è un buon motivo per lasciarlo solo a casa sperando di scoraggiare i ladri. 3. Non serve a nulla lastricare la ruota del criceto con le tue fototessere mentre fai ciao ciao con la manina, sperando che facendola girare lui si illuda di averti lì. Lo sa che sei partito. 4. È vero che i cani e i padroni si somigliano, ma togli al tuo barboncino quel pareo. 5. E togli anche il guinzaglio a tuo marito. Nonostante il pelo, non è il tuo barboncino. Ecco, queste sono le nostre tecniche di sopravvivenza. Oggi si parlava di animali, appunto, di come fare per portarseli in vacanza oppure se li vogliamo lasciare a casa. Ma questa sera che cosa c'è da fare? Per esempio, i Falò sulle colline di Cesare Pavese, veglie letterarie, concerti, spettacoli teatrali, animazioni, cene, degustazioni, momenti folcloristici per rievocare le tradizioni locali e leggere pagine tratte da romanzi, raccolte e poesie di Cesare Pavese in 9 comuni tra Langa e Monferrato. Questa sera saranno a Coazzolo e a San Marzano Oliveto. Sembra una serata interessante. Mentre a Genova c'è Paolo Rossi all'Arena del Mare. Se vi interessa, www.teatrogarage.it. Anche per oggi abbiamo finito. Vi aspetto domani sempre qui alle 10 del mattino con Agosto, tecniche di sopravvivenza. Domani è venerdì, e si parte. E quindi domani si parla della partenza, quindi lo stress della partenza. Voglio anche ricordarvi di prenotarvi per il caffè con noi la prossima settimana, per le 3 giornate che dedicheremo a chi è rimasto in città. Quindi scriveteci ad agosto@radio24.it se volete venire a raccontarci le vostre storie qui in radio. E vabbè, non mi resta che ringraziare in redazione Vittoria Mussini, Laura Faggin e in regia Roberto Scaltritti. Buona giornata. Fine della trasmissione. Ma io volevo soltanto... Fine della trasmissione. Ciao, sono Alessandro Del Piero. Tutti i giorni bevo Uliveto, la mia acqua della salute. Vi ha presentato... Agosto, tecniche di sopravvivenza.